Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Come funziona un'auto ibrida? Dalle domande che tipicamente mi vengono rivolte quando qualcuno mi chiede informazioni su come funziona la mia, ho la quasi certezza che la maggior parte delle persone abbia le idee abbastanza confuse. Per esempio, molti sono convinti che in buona sostanza un'auto ibrida sia un'auto tradizionale che quando va piano funziona grazie ad un motore elettrico. Ora, questo può anche capitare, ma in realtà i due motori collaborano in modo molto più sofisticato di così, ed è proprio qui uno dei segreti dei veicoli ibridi. Ci facciamo spiegare tutto da Luca Vetrone, responsabile tecnico di Toyota Italia, che è la casa automobilistica che storicamente per prima ha creduto nell'ibrido. Buonasera Vetrone. Buonasera Melis e buonasera a tutti gli ascoltatori. Senta Vetrone, allora mi aiuti subito a chiarire un punto. In fin dei conti, che cos'è che rende più efficiente un veicolo ibrido rispetto a uno tradizionale? Partiamo da qui. Ma innanzitutto i veicoli ibridi sono in grado di far funzionare il motore termico in condizioni ottimizzate, come diciamo noi tecnici, a regimi costanti vicino al punto di massima efficienza. Questa è una caratteristica che hanno quegli ibridi che nel mondo dell'automobile vengono chiamati full hybrid, okay. Diciamo, non è dato ai mild hybrid, che è l'altra categoria. Cioè i full hybrid, diciamo, sono più spinti, hanno dei motori più potenti, delle batterie più potenti. Dal full hybrid in su queste prestazioni sono possibili. Sotto no, diciamo così, per dirla in modo brutale. Okay. Secondo punto, i veicoli ibridi consentono di recuperare energia in frenata, trasformano in energia utile a muovere il veicolo quella che normalmente tramite i freni nei normali veicoli tradizionali viene dissipata in calore. Quando freniamo vogliamo rallentare. Certo, perché il motore elettrico può essere invertito e usato quindi come freno e generatore di energia elettrica. C'era poi un terzo aspetto. Ce ne sono in realtà altri due. Il terzo è che ovviamente consentono di realizzare il downsizing di cui oggi si parla molto, quindi ridurre le dimensioni del motore termico a parità di massime prestazioni erogate, perché si fa aiutare dall'elettrico quando serve la massima potenza, e poi ovviamente consente di spegnere il motore termico a veicolo certo. In tutte le condizioni in cui non quando siamo al semaforo, insomma, il motore termico tendenzialmente si spegne. Ecco, per conseguire tutti questi obiettivi, due motori elettrico e a combustione devono essere abbastanza indipendenti uno dall'altro, e questo dà origine a tutta una serie di situazioni di marcia diverse. Ci fa qualche esempio? Certamente, possiamo partire da fermi, diciamo, dal semaforo. E se noi ci troviamo al semaforo e vogliamo ripartire con il veicolo, vedremo che il veicolo parte grazie allo spunto fornito dal motore elettrico. Perché questo? Perché il motore elettrico è particolarmente bravo rispetto al termico a far partire i veicoli da fermo, cioè la sua forza è massima quando parte appunto da velocità zero. È chiaro che nel momento in cui noi dovessimo chiedere il massimo dell'accelerazione, ripartendo da un semaforo a gran velocità o in un sorpasso, interviene anche il motore termico, viene messo in moto dal sistema e fornisce energia insieme al motore elettrico per fornire alla vettura il massimo delle prestazioni erogate. Situazione opposta, invece, in una partenza, immaginiamo di essere in discesa, lì che cosa può accadere? In discesa o in tutte le situazioni nelle quali desideriamo far perdere velocità al veicolo, frenata o non farla aumentare, come ad esempio in una discesa, nel momento in cui andiamo ad azionare i freni, il sistema è in grado di riconoscere la volontà del guidatore e utilizza il motore elettrico come generatore. Produce dell'energia che viene immagazzinata nella batteria per poi farne uso quando servirà. Ecco, senta, un'altra situazione tipica è quella della velocità costante o più o meno costante. Sì. È la situazione ottimale per i motori a combustione, no? Insomma. Esatto, quindi il sistema decide di utilizzare il motore a combustione come primaria fonte di energia per il moto del veicolo, ma siccome nella maggior parte delle condizioni di marcia l'energia prodotta in queste condizioni è in eccesso rispetto a quella realmente necessaria per mantenere il veicolo alla sua velocità, l'energia che avanza viene immagazzinata nella batteria, possiamo dire che è un'energia preziosa perché è prodotta nelle condizioni di massima efficienza. Senta, tutto questo a bordo perlomeno dei veicoli Toyota, tutta questa flessibilità è possibile grazie a un ingranaggio particolare che si chiama giunto epicicloidale. Ci vuole dire qualcosa di questo oggettino anche molto interessante? Abbiamo detto che per il corretto funzionamento del sistema i vari elementi dello stesso, quindi il motore termico, il motore elettrico, il generatore, debbano essere in qualche modo collegati con un certo grado di indipendenza. E questo nei sistemi ibridi Toyota viene realizzato attraverso un ingranaggio che si chiama ruotismo epicicloidale, come lei correttamente ha detto, che è un dispositivo molto particolare perché ha la caratteristica di essere molto compatto, non più grande di una scatola di tonno in formato famiglia, ristorante, ma svolge le funzioni di un cambio automatico a variazione continua. Questo chiaramente è un dispositivo che è presente sui veicoli Toyota, ma la concorrenza è stata in grado di realizzare soluzioni analoghe attraverso altri tipi di meccanismi. Va bene, grazie Luca Vetrone. Buonasera. A domani.